Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Siamo tornati, siamo qui, siamo in diretta alle 9:07 minuti dagli studi di Radio 24 di Milano. C'è negli studi di Radio 24 di Roma la nostra Veronica Gentili. Sì, ma io qui ho dei grossi problemi, Ale. Non riesco a buttare fuori Luca Telese dallo studio. Non so come fare. Eccolo lì, lo vedo infatti nelle telecamere. Qua è un'ora che cerco di buttarlo fuori. Ha cercato di aiutarmi Alessandro Chiappini prendendolo di peso, ma non va via. Niente, non va via. Adesso va via Mesto, Mesto. No, sono arrivati a prenderlo proprio con la camicia di forza. Eccoci. Benissimo. Qua. Allora, siamo in diretta qui in studio a Milano, c'è Paolo Corleone in regia e ci sono Lorenzo Nespoli e Elisa Pancaldi in redazione. La nostra Elisabetta Fusconi tornerà, l'abbiamo mandata in ferie, che non è insomma così, l'abbiamo mandata in ferie, ma torna. Ma tanto pagherà caro, pagherà tutto, l'abbiamo mandata in ferie, ma appena torna. Assolutamente. Allora, tra l'altro noi oggi parleremo di tanti temi come sempre, cara Veronica, però io non vorrei che gli ascoltatori poi si abituino al fatto che una vicenda come quella di New York, ormai vedi, è sulle prime pagine dei giornali, ma è un po' così, dobbiamo abituarci che ogni tanto ci sarà qualcuno che ci colpirà. Beh, è molto triste, ci siamo lasciati martedì, no? Ieri è andato in onda il meglio di, quindi abbiamo detto facciamo un giorno di stacco e abbiamo martedì sera stessa, insomma è stata una serata molto brutta e... Non ci si aspettava che riaccadesse, tantomeno che riaccadesse negli Stati Uniti, che in qualche modo erano diventati un po', zona franca dopo l'11 settembre, no? Sì, io invece penso che ormai non ci sia più posto nel mondo dove si può stare tranquilli da questo punto di vista, nel senso che quando tutti dicono, ma allora tu cosa faresti? Purtroppo temo che se ci sono persone che ci vogliono colpire gridando Dio è grande, uccidendoci... Si può contenere, si può cercare di limitare, si può cercare anche di imparare a conviverci, purtroppo è una cosa tristissima, ma non è che si può, come dire, ecco, non si può fare come Trump che dice blocchiamo tutte le green card e vabbè, no. E troveranno un altro modo per radicalizzarsi e colpire. Anche perché le generalizzazioni non hanno senso, come lui dice appunto, non tutti gli immigrati sono uguali, neanche tutti gli autoctoni sono uguali e purtroppo anche leggendo questa storia, e torniamo a una faccenda di cui si è parlato tante volte, una delle ipotesi più probabili è che quest'uomo si fosse radicalizzato negli Stati Uniti, certo, per cui tutta così. Quella solfa malefica che ci ripetiamo sul cyber integralismo, sulla rete, sui manuali che si apprendono lì, sul fatto che adesso veramente c'è questa sorta di ISIS prêt-à-porter, purtroppo continua a rivelarsi sempre più vero. Problema, per esempio, si è scoperto che si sarebbe radicalizzato in una moschea dove c'erano i controlli della polizia, poi sospesi dal sindaco De Blasio, il sindaco di New York. Quindi forse con una maggiore intelligence, questo è l'unico modo, l'intelligence, la prevenzione, il controllo. Certo, poi bisogna anche fare i conti purtroppo con alcune persone che si radicalizzano e quello, lo sai che è un tema di grande discussione anche è tra chiaro. Di noi, si radicalizzano per quella specifica religione. Ma questa l'islam, è la questione che abbiamo toccato tante volte. Noi sappiamo che la religione islamica può prestare il fianco a male interpretazioni, ad essere letta in un determinato modo, ma sappiamo anche molto spesso che queste persone sono persone che di religioso in partenza non avevano nulla e che poi appigliano alla religione per trovare un pretesto si appigliano peggiore degli scopi alla loro esistenza. No, si appigliano a quella religione, certo. Non al buddismo, non all'ebraismo, non al cristianesimo, a quella religione, all'Islam, per colpire. Questo è una cosa con cui dovremo fare i conti. Che è quello che appunto dicevo poc'anzi, purtroppo questa religione interpretata in un certo modo si può prestare a delle letture sfalsate, però certo sorprende pensare che quest'uomo arriva 7 anni fa negli Stati Uniti senza barba, senza nessuna di quelle caratteristiche che uno si aspetta da uno che arriva dallo Uzbekistan e dici si è radicalizzato lì, invece no, perché quelli sono paesi molto duri nei confronti degli integralisti islamici, e invece arriva negli Stati Uniti e si radicalizza tramite il web. È una cosa sorprendente, è sorprendente, molto angosciante, perché è anche molto meno controllabile. Certo, purtroppo è il percorso di molti che poi hanno colpito così. In ogni caso, noi 800 24 00 24 non vogliamo partire da questo, vogliamo partire da un altro tema che è più vicino a noi, se non altro fisicamente, e riguarda l'Italia. È il tema del bullismo nelle scuole, perché c'è una vicenda che è successa a Torino da cui vogliamo partire. Allora, la notizia che è uscita nei giorni scorsi è che tre ragazzi sono stati condannati, sono maggiorenni, anzi due ragazzi maggiorenni, sono stati condannati a 8 anni di carcere per avere bullizzato con delle sevizie, insomma, Veronica, che non so neanche se è una storia, no, ma probabilmente vanno ripetute semplicemente per capire a che livello di cose agghiaccianti si può arrivare. Facevano mangiare escrementi a un compagno, facevano mangiare lumache vive, escrementi di cane. Oltretutto, poi in questo aspetto qui non c'è soltanto il bullismo in questo genere, ma c'è proprio la violenza sessuale. Questo ragazzo è stato abusato più e più volte con un ombrello, è stato costretto ad avere rapporti sessuali con una prostituta, filmato, perché altrimenti sei gay, e venivano con i due ragazzi che guardavano. E tutto questo che è stata una sorta di persecuzione vera e propria, molto al di là di quello che nell'immaginario pensiamo per bullismo, è durata oltre 2 anni. Sì, qui più che bullismo proprio è violenza vera e propria. Comunque noi abbiamo due ospiti con cui parlare, l'avvocato difensore della vittima, Maria Giovanna Musone, una degli avvocati. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Con noi c'è anche il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno, dottor Saluzzo. Grazie. Buongiorno a voi. Tra l'altro Francesco Saluzzo era stato anche all'epoca, forse ricordate, il caso considerato più eclatante, no? Quello del suicidio di Nicoletta Picchio, che fu bullizzata e poi si tolse la vita a 14 anni. All'epoca lei era il procuratore che seguiva a Novara. Questa vicenda a Novara. Sì. Intanto, procuratore, la sentenza è esemplare oppure una sentenza, per carità, non è che vogliamo fare il commento, ma giusta, nel senso che 8 anni sono, 8 anni e mezzo sono tanti, 8 anni e mezzo di carcere, però i reati sono gravi. I reati non solo erano molto gravi, ma erano anche tanti. Perché sì, si era declinato in tutta una serie di comportamenti la condotta di questi ragazzi, degli imputati, che è proseguita nel tempo e ha assunto gli aspetti più odiosi anche di vessazione e di barbarie nei confronti della persona offesa. Procuratore, quindi i tre reati sono stalking, lesioni e abusi sessuali, è corretto? Sì. E ovviamente la lunghezza della condotta, la gravità di questi fatti, quando poi si vanno a fare le somme, si fanno i calcoli della pena, vediamo che non è che è una sentenza di una durezza spaventosa o esemplare, è una sentenza che ha applicato una pena che secondo me è una pena proporzionata e adeguata alle caratteristiche di quei comportamenti, e soprattutto tenendo conto anche di quelli che sono gli impatti negativi, perduranti e gli impatti devastanti, direi, sulla persona offesa. Tra l'altro di recente c'è una nuova legge proprio sul bullismo, anche ispirata dalla senatrice Ferrara e dal padre di Nicoletta Picchio, battuto. È una legge che non introduce nessuna novità nel campo penale, diciamo, ma è una legge che affronta il problema come secondo me giustamente deve essere affrontato, sul piano dell'educazione, sul piano della cultura del rispetto dell'altro, sul piano anche del rispetto delle diversità, del rispetto delle caratteristiche individuali, della timidezza, l'essere non particolarmente capace di stabilire relazioni interpersonali all'interno della scuola, fuori dalla scuola, eccetera. E la legge si fa carico di questo. Contiene anche una previsione, che è quella dell'ammonimento del questore, e soprattutto delle interessanti previsioni con riferimento alla possibilità di chiedere la rimozione immediata dai siti, soprattutto quelli che sono legati all'URL. Io questo le volevo chiedere, procuratore, quanto è cambiata la legge invece rispetto al cyberbullismo, che comunque è una novità rispetto a quello che era il bullismo per come lo conoscevamo? Ma guardi, è cambiata in maniera significativa e positiva, perché quando abbiamo affrontato il caso di Carolina Picchio, sì, ci siamo scontrati proprio con l'impossibilità, abbiamo fatto delle rogatorie negli Stati Uniti, eccetera, con l'impossibilità di risalire la catena con riferimento all'aver postato le immagini di Carolina Picchio, che poi hanno determinato gli effetti psicologici che hanno condotto la ragazza al suicidio. Certo. Adesso invece, perlomeno con riferimento ai siti che possono essere individuati, lo stesso minore, purché abbia più di 14 anni, può chiedere l'immediata rimozione e il gestore ha l'obbligo di rispondere. Mm-hmm. Se non risponde, le stesse persone, il minore o i genitori, possono rivolgersi all'autorità garante per la protezione dei dati, per il trattamento dei dati. C'è una maggiore tutela, certo, da questo. Certo, questo cosa vuol dire? Che anche il minore che non ha tanto voglia di parlare con i genitori di quello che gli succede a scuola o di quello che gli succede su un campo di calcio, eccetera, ha la possibilità di agire direttamente, e considerando la maggiore maturità, tra virgolette, perché ovviamente non vale per tutti, perché non vale per chi tiene questi comportamenti, pone anche nelle mani del minore, purché abbia più di 14 anni, uno strumento molto, sì, utile, diciamo. Intanto di autodifesa prima di denunciare. Certo, chiaro. Certo, sì, certo. Chiaramente questa vicenda molti chiedono anche cosa si farà, come si può rieducare queste persone. Non so, l'avvocato Maria Giovanna Musone, forse in questo momento non è il momento tanto della rieducazione, ci saranno 8 anni e mezzo di carcere per meditare anche su quello che hanno fatto. A noi interessa e preme capire, insomma, ma davvero è durata così tanto, sono durati così tanto questi reati senza che il suo assistito abbia avuto la forza, il coraggio, l'appoggio di qualcuno per uscire da questa spirale così violenta, avvocato? Buongiorno anche da, sì, parte mia. Volevo aggiungere un dettaglio e dire cosa che già ho detto, che non c'è gioia da parte della famiglia perché due ragazzi finiscono in carcere, ma di certo si può dire che la sentenza che ha emesso il collegio del Tribunale di Torino con a capo il giudice Nanni Belli è una sentenza che dal mio punto di vista è giusta per un caso di violazione dei diritti umani e per la sofferenza che il mio assistito ha patito, che è emersa tutta durante il processo, tutta. È inutile soffermarsi sui dettagli del caso, dobbiamo cercare di capire il messaggio che si può dare da una sentenza così. E cioè? E a mio avviso che nei casi di violenza grave, nei casi di violenza sessuale, è giusto che le violazioni, le violenze siano punite severamente dalla magistratura, perché si tratta di ragazzi che comprendono che le vessazioni, le violenze inferte ad un compagno non sono delle semplici bravate, ma sono dei reati che sono duramente sanzionati dal codice penale e che quindi è bene che si rifletta prima di fare del male agli altri e anche a se stessi. Questo non c'è dubbio. Questo rientra poi nel filone delle cose che vengono punite rispetto a tutto ciò che si pensa di poter fare senza che ci siano conseguenze. Sì, ma il ragazzo, esatto, davvero, non è, come gli ho chiesto, il ragazzo non è riuscito in qualche modo a uscire da questo tipo di spirale. È una vicenda particolare perché si sono innescati dei timori, delle minacce, per cui all'inizio non è riuscito, poi dopo in seguito si è appoggiato a delle persone di sua conoscenza ed è riuscito a tirare fuori, grazie anche nel corso del processo alla bravura del pubblico ministero Tiberio Dionigi, è riuscito a tirare fuori tutto quello che aveva subito e con grande lucidità è riuscito anche a collegare i vari episodi tra loro, che poi sono stati suffragati dalle testimonianze. Sentiamo un'ascoltatrice, Veronica, all'800240024. Mimma è la prima ascoltatrice da Milano. Buongiorno, Mimma. Buongiorno, ecco, anche io penso che la punizione per questi ragazzi che hanno compiuto queste azioni così aberranti verso una persona debole, incapace di difendersi, sono semmai troppo leggere, perché è una cosa 8 anni e mezzo di carcere, guardi che non si leggono, non si leggono molto spesso condanne di questo tipo. Guardi, ma le azioni fatte da queste persone sono veramente di una crudeltà incredibile. Non c'è dubbio. Aberranti. Infatti. Comunque grazie. No, prego. Oltretutto volevo chiedere anche una cosa all'avvocato, che è un elemento che mi ha colpito moltissimo. che pare che Andrea, nel momento in cui appunto ha saputo che il processo aveva inizio e quindi insomma che tutta la vicenda era ormai nota, è addirittura fuggito, che è stato cercato tramite chi l'ha visto, che era stato ricoverato in un reparto di psichiatria. Insomma, è stato veramente per lui, da un punto di vista psichico, una cosa devastante. Sì, sì. Devastante è la parola più giusta. Non riusciva a sopportare il peso del processo e quindi è scappato. Per fortuna poi è stato ritrovato ed ha incominciato un percorso di cura, di terapia, che tuttora continua. Ma questo per capire come i segni poi purtroppo rimangano. Procuratore Saluzzo, lei ovviamente ha il polso della situazione, non solo su Torino, ma insomma, intanto anche per la sua esperienza pregressa per Carolina Picchio, ma poi anche per il suo ruolo attuale. Questo tipo di reato, il bullismo, è davvero così sanzionato? Ci sono dei numeri, delle statistiche che ci può dire su come viene gestito dai tribunali italiani? Guardi, numeri non ne ho, nel senso che ci sono molte indagini nelle varie procure del distretto, perché il fenomeno è molto più diffuso di quanto si pensi. E la linea... Ma non è sempre stato così? Cioè, io chiedo, nel senso che, voglio dire, tutti possiamo avere racconti di bullismi a scuola, no? Tutti. Ma sì, probabilmente anche noi che stiamo parlando qualche volta. Appunto. Però no. è molto diverso rispetto al passato. Diciamo che ci sono tante sfumature di bullismo, sì, anche, no? Sì, non solo ci sono sfumature di bullismo, ma in passato c'era una sorta di rassegnazione, nel senso che veniva vissuto come qualcosa di ineluttabile, nel senso che quando capitava, i genitori si chiudevano a riccio, non facevano magari uscire il figlio, le denunce erano praticamente inesistenti e conseguentemente anche i processi non se ne facevano. E secondo me il fenomeno è stato enormemente amplificato sia dal punto di vista del numero di episodi, sia dal punto di vista della gravità, anche dalla possibilità di diffusione di immagini lesive e compagnia attraverso i social, attraverso i siti. Per questo, perché è come se ci fosse l'aspetto dell'onta sociale. Certo, perché mentre prima chi sapeva, era una cerchia ristretta di persone. Adesso, come nel caso di Carolina Picchio, questa roba poi circola dappertutto, cioè in maniera del tutto incontrollata e con una platea di una vastità impressionante. Per cui recuperare o in qualche modo limitare gli effetti è praticamente impossibile. Però ovviamente tutto questo impone un discorso, che non è solo attraverso la via giudiziaria che si possono risolvere questi problemi. Come in molti altri casi, come di fronte a molti altri fenomeni sociali, l'intolleranza, il rifiuto dell'altro, il rifiuto del diverso, eccetera. E qui è un problema culturale. E il nostro paese in questo ha un deficit di avanzamento culturale molto forte. La scuola, la famiglia, le istituzioni... devono fare molto di più. La legge va in questa direzione, ma bisognerà vedere poi quali saranno gli effetti, se saranno concreti o se sarà una pura declamazione di principi, di intenti a cui poi non segue. Sì, anche perché la risposta normativa può essere solo una delle risposte, non può essere mai la risposta che comprenda tutto, perché no, chiaramente uno può... fa la legge, ma poi no, può fungere da deterrente in termini di paura di ciò, sì, che si subisce dopo, ma chiaramente non è sufficiente, perché poi... No, certo, però bisogna sapere anche che nel momento in cui le cose vengono alla luce, le persone trovano il coraggio di denunciare, le persone che denunciano devono sapere che saranno ascoltate e che ci saranno delle conseguenze. Le persone che commettono questi fatti devono sapere e devono avere la certezza, insieme a quella della crescita, diciamo così, culturale, di informazione, educazione, eccetera, che le conseguenze saranno severe, perché in passato ci sono stati episodi di processi fatti per queste cose, concluse con pene ridicole, 2 mesi, 3 mesi, sì, eccetera. L'afflittività di una sanzione di questo genere in un paese in cui non si eseguono neppure le pene serie è praticamente prossimo allo zero. Guardi, noi, a zero. Certo. Noi ci siamo occupati la scorsa settimana del caso del minorenne, però in quel caso era minorenne che ha spinto per scherzo due anziani su una scogliera, certo. Uno è morto e non farà neanche, avrà addirittura il reato cancellato se farà un programma di recupero di 3 anni. In questo caso erano poco più che maggiorenni, questo ha cambiato anche molto la situazione, perché chiaramente fossero stati minorenni, Veronica, forse non so, ci troveremmo con la giustizia minorile a gestire un'altra situazione. Non così, con una sanzione non così grave. Intanto noi ringraziamo Francesco Saluzzo, procuratore generale di Torino, e l'avvocato Maria Giovanna Musone, uno degli avvocati difensori della vittima. Guarda che ci sono anche tanti ascoltatori. C'è Fabrizio D'Ancona, buongiorno Fabrizio. Buongiorno a voi. Allora, niente, il mio intervento era legato al fatto che sono chiaramente d'accordo con la sentenza, fosse stato per me anche qualche anno in più. L'unica cosa che mi viene da segnalare è che noi ne stiamo parlando la mattina alle 10 e qualcosa su Radio 24, sì. Ma chi forse... Nove, ok. chi praticamente i ragazzi che probabilmente dovrebbero conoscere a fondo la questione, perché poi riguarda loro, causa e effetto, magari ne sono poco informati. Quindi il mio augurio è che di fronte a situazioni del genere, sentenze così, che come ha detto l'avvocato dovrebbero essere di insegnamento, anche le scuole superiori si mobilitino, nel senso che magari sarebbe cosa buona e giusta che magari il ministro Fedeli imponga magari un incontro, un'ora, di fronte a certe situazioni nelle quali qualcuno spiega ai ragazzi cosa è successo, come sono andate le cose, quali sono state le conseguenze. Fabrizio, per esempio, Paolo Picchio, il papà di Carolina, gira ora, che dopo aver affrontato appunto il suicidio di una figlia 14enne, gira per le scuole, è uno degli ispiratori della legge sul bullismo e gira per le scuole e incontra i ragazzi, ecco. Però certamente è un lavoro capillare da fare. Per esempio, io penso, Alessandro, tu sai che io non sono solita essere violenta nelle punizioni e nel pensare a questo genere di cose, anzi tendo ad essere l'opposto, però in questo caso specifico, secondo me, anche il fatto che culturalmente quello che è sempre stato il fenomeno del bullismo, come diceva il procuratore, dato per assodato, no? Le matricole con quelli più grandi, il fatto che un po' comunque essere vessati sta nel gioco delle cose, che anche le famiglie si rassegnano, ecco, questa è una cosa che culturalmente, secondo me, anche in maniera ogni tanto coatta, quindi è chiaro il discorso nelle scuole in una maniera più costruttiva, ma sapere che si incorre in delle sanzioni importanti sia da un punto di vista giudiziario ma anche da un punto di vista scolastico, cioè una durezza estrema in questo per tutelare coloro che invece in un'età infausta come quella dell'adolescenza, perché nasce lì il problema del parlarne ai genitori, secondo me un suo senso ce l'ha. Ma certo che ce l'ha, c'è da dire che in questo caso la durezza c'è, anche perché i reati erano come dire gravissimi, non era il bullismo che infatti, ne so... Io quando ero al liceo c'era San Firmino, il giorno di San Firmino tutti i primini, quelli della prima liceo, venivano beccati e dovevano farsi firmare non volontariamente ma in maniera coatta faccia, braccia, però quella è una forma sì di bullismo, infatti, però non è la stessa cosa. Lì entra nelle sfumature, ma anche in questo caso per esempio c'è una delle cose forse tra le più lievi che hanno fatto a questo ragazzo, che è un classico, cioè costringerlo a bere così tanto alcol fino a farlo stare male, quasi insomma, da rischiare il cometilico. Questa una cosa grave, che già succede grave. Ecco, in una cosa come questa uno per esempio sospende coloro che decide, li boccia, gli fa ripetere l'anno, ma delle credo cose che ci siano sanzioni di questo tipo, cioè immagino se una preside, se i professori vengono a sapere una cosa del genere, ci sono sanzioni, la buona condotta, la buona vecchia sana condotta, della condotta, per cui io in condotta ti boccio e decido chiaro. Che tu per un gesto come questo ripeti l'anno. C'è Sergio da Padova, buongiorno. Sergio, che succede? La stanno chiamando da Radio 24. Pronto? In diretta. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Ci scusi. Senta, io volevo parlare degli attentati, perché mi sembra una cosa... Sì, la sentiamo così, però provi. Forse mi sente meglio adesso. Così molto meglio, se toglie il viva voce o l'auricolare, prego. Allora, molto rapidamente. Dunque, io ritengo che quando avviene un attentato ci sono come minimo 10, 15, 20 persone attorno a questa persona che sanno perfettamente quello che sta per avvenire. E questo è, direi, matematico, questo fatto qui, no? Quindi, poiché credo che non sia il caso sempre dover porgere l'altra guancia, ma senza una cosa violenta, eccetera, proponevo di dire, se non vengono... Sono in linea? Sì, certo. Sì. Ecco, se succede, diciamo, un attentato, che ci sia una disposizione che dica... che vengono rimandati a casa, per esempio nella moschea di provenienza di questa persona vengono rimandati a casa una serie di persone. Infatti si faranno le indagini, hanno già trovato un complice, probabilmente sentiranno la moglie sicuramente. E questa è l'idea dell'indagine, ma come le trova uno le tot persone che sapevano? Facendo indagini, no? Per esempio, uno dei lati positivi del fatto che abbiano preso vivo quest'uomo questa volta è proprio questo, cioè il fatto che se c'è una rete, una sorta di rete anche un po' così montata su a casaccio di pseudo lupi solitari, ma che intanto venga fuori, visto che quello... Questo sì. Comunque c'è. Sergio dice colpire, ma certo, su questo non c'è dubbio, se ci sono dei complici, se c'è una rete di terroristi vanno come dire puniti non solo l'esecutore materiale ma anche chi l'ha appoggiato, questo mi sembra una cosa anche abbastanza ovvia. Comunque dopo la pubblicità rimanete con noi, 800 24 00 24. Non abbiamo dato i numeri per i WhatsApp. Allora, è grave questa cosa, gravissima. SMS Veronica. SMS WhatsApp 349 238 6666. E in effetti se no come fanno a dirci tutto quello che ci tra devono l'altro, dire? Tra l'altro, in audio, i WhatsApp, c'è l'audio, dai che lo sapete, svegliatevi, che sono già 9:30. I funamboli. Mila, ma tu lo sai perché in Islanda e Irlanda non ci sono attentati dell'ISIS? Non ci sono musulmani in quei luoghi. Trump fa bene a non dare le green card, fa bene a entrare a gamba tesa con queste persone e dovremmo iniziare a farlo anche noi. Ecco qua, hai chiamato i WhatsApp al 349-238-6666 e vedi che rispondono in maniera pronta, non subito. Come vorresti tu, ma No, pronta, figurati, pronta. Tanto le risposte non possono che essere quelle. Tu puoi fare le domande, non è che puoi controllare le risposte. No, poi lo so, quindi mi sto cercando di rassegnarmi a questo, ci lavoro giorno dopo giorno. Lavora su di voi, faccio meditazione per evitare di voler dare anche le risposte. Io vorrei farmi la domanda e darmi la risposta, certo. Ma me lo impedisco. O si può fare come in quelle cose in cui io vi do la risposta, indovinate la domanda. Forse proverò così, Il prossimo tentativo faccio questa. Allora, cari ascoltatori, c'è Aurelio che ci chiama da Como. Buongiorno, Aurelio. Buongiorno a lei. Volevo fare una domanda sul caso dei ragazzi. Ma mi sta tutto bene, la condanna, la magistratura l'ha applicata nei termini convenuti. Va tutto bene, ma la domanda che mi faccio e che vi faccio a voi è: ma i genitori di questi due ragazzi non sarebbe corretto andare un po' a verificare anche la situazione dei genitori? Perché non è possibile. Verificarla, ma perché cosa? Perché la responsabilità è personale, non è che cioè verificarla va bene, uno che dopo uno la verifica. No, lui parla dei genitori, credo, del ragazzo. I genitori dei ragazzi, degli abusi. Dei ragazzi, io parlo dei due ragazzi aguzzini. Cioè, ma è possibile che dei genitori non si rendano conto o non capiscono o che humus culturale c'è in quelle famiglie? Certo, ma una volta che lo abbiamo appurato... No, ma è interessante, Aurelio, certo. Quello che lei propone. Però nel processo probabilmente sarà anche emerso, forse, no? Ma me lo auguro, perché due genitori che vengono... I loro due figli vengono condannati a 8 anni, è un chiaro fallimento... della famiglia, della cultura della famiglia, per me è un fallimento dell'educazione. Dopodiché è una tutto. Considerazione sì che è interessante, ma non ci porta, voglio dire, ci porta a considerazioni, ecco, ma dal punto di vista processuale non vorrei che lei pensasse andrebbero in qualche modo puniti anche loro, insomma, cosa si può fare, insomma, la responsabilità è personale. Quello sappiamo, che tra genitori e figli sono ancora distinte le responsabilità. Comunque grazie, cara Veronica. Tu sai che nell'Ogliastra, in Sardegna, in zona centro-orientale, risiedono un casino di centenari. Questa devo dirti che è una storia veramente intrigante. Noi ce ne siamo occupati un anno fa, prima il governatore ex Renato Soru aveva messo proprio un'azienda per cercare di fare della ricerca su questi DNA delle persone centenaria nell'Ogliastra. Poi quella azienda era fallita, allora è intervenuta questa Tiziana Life Sciences a dire: vabbè, rileviamo noi i DNA di queste persone. Cioè, per sostanzialmente studiare. Il tentativo era quello di scoprire il segreto della lunga vita di questi ultracentenari che si trovano tutti nella zona, no, della Sardegna centro-orientale. Avevano preso, campionato i loro dati genetici per cercare di carpirne i segreti. Sì. Veramente molto. Tutto ovviamente attraverso la volontà di queste persone, certo, che avevano messo il DNA a disposizione. Però adesso la procura di Lanusei ha scoperto che c'è ci sono dei possibili reati, 17 persone indagate, perché non si sa, questi DNA sono stati spostati, sono stati trattati evidentemente con poca cura, l'accusa, qualcuno ci vuole lucrare, insomma è una vicenda controversa. 17 indagati eccellenti, perché si parla di scienziati, sindaci che potrebbero aver sottratto queste famose provette e averle spostate altrove, no? Allora, esatto, ci vuole spiegare tutto il prossimo funambolo, che è con noi il procuratore di Lanusei, Biagio Mazzeo. Dottor Mazzeo, buongiorno e grazie di essere qui a Radio 24. Buongiorno a lei. Allora, intanto la vicenda mi sembra un pochino confusa, almeno da come l'abbiamo capita noi sui giornali. Esattamente cos'è l'ipotesi di reato e contro chi? Sì, diciamo che l'ipotesi di reato originaria era quella di furto a seguito della denuncia del parco genetico dell'Ogliastra, precisamente di una dipendente, del fatto che c'è stato un furto, una sottrazione, una sparizione, come la vogliamo chiamare, e nell'occasione sono partite le indagini che io ho delegato ai carabinieri di Erso. Della compagnia di Erso. Nel corso delle indagini si è scoperto che poi queste provette erano state portate via e trasferite presso un ospedale di Cagliari senza nessun avviso, senza dare nessuna comunicazione a nessuno. Quindi diciamo, siamo entrati in questa vicenda e scoprendo delle cose un po' sconcertanti, cioè che sebbene presso questa struttura si facessero in teoria attività di ricerca particolarmente importanti, non venivano adottate misure di sicurezza adeguate, quindi non c'erano sistemi di allarme, non c'erano registri, non si sapeva chi entrava e chi usciva, quindi c'era una gestione un pochino approssimativa di questi, di questi. Però un altro punto che io ho letto è questo: il sospetto è che si potesse creare una speculazione, e cioè che questi campioni del DNA potessero essere utilizzati per realizzare brevetti da rivendere alle case farmaceutiche. Ma quello è un po' l'intento di chi li vuole comprare, questa azienda di Londra. Infatti quello che vorrei precisare, colgo questa occasione per precisare che noi come diciamo autorità giudiziaria non interveniamo su quello che è la finalità della ricerca, che se è svolta all'interno delle norme che riguardano la tutela dei dati personali è lecita, anche se ha finalità di lucro e non finalità di tipo filantropico. Il problema è che devono essere rispettate certe regole, ad esempio chi fa ricerca biologica deve diciamo fare una notifica, chiedere un'autorizzazione al garante della privacy, e quindi ci sono delle norme da rispettare, così come deve adottare delle misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati e proteggere quindi le informazioni sensibili delle persone che hanno partecipato al progetto volontariamente. Quindi praticamente l'accusa non è legata al fatto che ci sia un'azienda che vuole brevettare qualcosa, ma è proprio legata alla gestione di questi campioni. Esatto, poi quello che è emerso è che io ho potuto vedere, diciamo, gli atti di consenso che erano stati sottoscritti da parte di quelli che diciamo chiamiamo donatori, di quelli che hanno partecipato. E che cosa avevano chiesto? Di consenso indicavano precisamente non solo il soggetto che era autorizzato, che nel caso di specie era la società Shar DNA, che poi è fallita, ma indicavano anche il tipo di ricerca che sarebbe stata svolta. Quindi il consenso è stato dato non soltanto in funzione di uno specifico soggetto, ma anche in funzione di una specifica attività di ricerca. In effetti il garante della privacy era intervenuto con un provvedimento con cui diceva: attenzione, che se volete fare delle ricerche diverse dovete chiedere di nuovo il consenso. Cioè ricerche a fine di lucro? Ma il fine di lucro non è in discussione. Quello che è in discussione è il fatto che la persona che presta il suo consenso per l'utilizzo di dati suoi, che siano biologici o di altra natura, non fa differenza, deve essere al corrente dell'uso che poi verrà fatto di questi dati. Questo è il punto focale, secondo me. Anche se noi in realtà il nostro problema non è quello, il nostro problema è quello di tutelare, diciamo, non solo le persone che hanno prestato il consenso, ma anche tantissime altre persone cui dati non biologici ma dati anagrafici sono stati acquisiti in modo irregolare. E per quello che poi ci sono indagini anche a carico di ufficiali di stato civile, sindaci. Intanto la ringraziamo moltissimo, procuratore. Grazie per essere stato con noi, il procuratore Biagio Mazzeo della Repubblica di Lanusei. Cara Veronica, qui è tutto intricato. Certo, è intricato già il fatto che ci siano dei centenari e molti centenari nell'Ogliastra. Possiamo anticipare un attimo la rubrica dei furbizzati? Sì. Cioè? Oggi volevo parlare io. E le provette. Che succede? No, ma dai, no, non le hai rubate tu. No. Sono nel mio cassetto. Non è vero, non è adesso vero. Io, non è vero. Io l'ho detto e non il procuratore è tanto attaccato. Quindi sì, si sì, è attaccato, non ti sente più nessuno. Non c'è problema. E quindi le spaccio. Se volete chiamate, oppure, al numero 349-238-6666, chiamatemi, rispondo io e vi do le provette. No, oppure mi fanno già gesti dall'altro lato qui del vetro, gente che mi sta per chiamare io. Al momento, tutti. Sospettato anche Berlusconi, di questo. Berlusconi, sai che vuol vivere adesso, fino a 120 adesso anni. Adesso tu vuoi sapere troppo da me, però diciamo che ci siamo accordati. Dai, non andiamo troppo oltre. Il traffico. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta i Funamboli. Vorrei dire qualcosa riguardo a quella condanna di 8 anni a quei due ragazzi. Secondo me è adeguata, anzi è inferiore a quanto si meritano. Io penso che per reati di questo tipo, perpetrati da minorenni, anche i genitori che ne sono responsabili debbano pagare in qualche modo. Milan, ma quale San Firmino? Quelli sono dei reati gravi. Subire un'umiliazione del genere è violenza privata. Perché dite i messaggi WhatsApp, audio e roba varia e poi non rispondete mai, non li leggete mai? No, non è che rispondiamo in diretta. Sai che c'è gente che ci chiama in diretta su WhatsApp, ma non è che possiamo rispondere. No, la signora, devo dire, sono maggiorenni quelli che hanno compiuto il reato, giusto per completezza. Sì, perché in realtà c'era un messaggio invece che precisava che esiste la colpa in educando, per esempio, quando ci sono casi minorenni. Di minori. Ma sono maggiorenni questi qua, avevano 18 anni passati, compiuti. Leonardo. Buongiorno, io sono un po' pessimista riguardo al bullismo, perché in una società dove dominano ignoranza e aggressività come valori aggiunti, insomma, non la vedo benissimo, ecco. Grande ottimismo, è il momento dell'ottimismo. No, mi diceva che ieri in piscina ha incontrato uno che ha questionato con lui sulla questione delle scale mobili. Sì, sulle scale mobili. Stamattina mi sono reso conto invece, venendo qui, che c'è un altro problema in metropolitana di cui però nessuno si lamenta. Eccoci. Il problema è questo. Borseggiatori. No, la mattina le metropolitane, i vagoni sono già carichi di persone e quelli che entrano, quando il vagone è un po' meno carico, si fermano all'ingresso. Certo. No, no, andare, vai nel centro, almeno liberi l'ingresso. Invece trovi i vagoni che fortunatamente sono un po' meno carichi, con la zona centrale libera. Quello fa incazzare anche me. Cani però... maledetti, no, che si fermano. Adesso che si fermano all'ingresso. Questa tua insofferenza è parente di quelli che si irritano sulle scale mobili. No, io te lo dico, stai passando dall'altro lato della barricata. Maledetti, no. Quelli che mi sgridano perché io non mi metto a destra sulle scale mobili sono gli stessi che si fermano all'ingresso dei vagoni. Non è vero, non è vero. No. Quei cani maledetti. No, ma basta. No. Secondo me ti stai trasformando e tra un po' diventi una iena da scala mobile. Vabbè, te lo dico. Vabbè. No, invece mi sono reso conto in questi giorni di un'altra cosa, che siamo entrati con la festa di ogni santi ufficialmente nel periodo natalizio. E da cosa l'ho capito? L'ho capito dalle pubblicità, che non c'è più traccia di pubblicità dove ci sono donne che eliminano sulle gambe i peli superflui per essere pronte a cogliere ogni occasione anche all'ultimo minuto, e invece cominciano a esserci le prime pubblicità con Babbo Natale. Quindi ho capito che la scansione delle stagioni è data dalla collocazione dei peli sul corpo. D'estate sono quelli superflui sulle gambe delle donne, poi cominciano quelli di Babbo Natale sul viso, e se ne siamo condizionati dalla peluria nel capire che stagione è. Allora, però... È un invito a non depilarci questo, eh? Io l'ho preso così. A me le donne piacciono anche se ha le gambe un po' pelose, chi se ne frega. Che masculo che sei, sì, proprio masculo. E quindi ci avviamo verso il periodo natalizio, e a casa mia, dei miei genitori, quando ero bambino, mia madre smetteva di dedicarsi a me quando arrivava Natale per dedicarsi alle pulizie con una sorta di follia antibatterica. Io invece mettevo in ordine i giocattoli, perché altrimenti Santa Lucia non mi avrebbe portato i regali, perché dove abitavo io, a Salò, sul lago di Garda, i regali ai bambini non li porta Babbo Natale, li porta Santa Lucia. Forse perché Babbo Natale è vestito di rosso e Salò è stata la sede della Repubblica Sociale di Mussolini, quindi Babbo Natale a Salò pure di essere preso a fucilate, e allora delega la zona a Santa Lucia. Santa Lucia rispetto a Babbo Natale è meno potente, perché Babbo Natale arriva con la slitta volante trainata dalle renne, invece Santa Lucia arriva a cavallo di un asino. Però Santa Lucia rispetto a Babbo Natale è più cattiva, perché dice la leggenda che Santa Lucia, se quando arriva trova ancora un bambino sveglio, lo acceca buttandogli la sabbia o la cenere negli occhi. Perciò molti bambini scrivono a Santa Lucia, ma solo per chiedere di non essere accecati. È una notte di terrore. Finché a Natale arrivavano i parenti ed eravamo tutti eleganti, anch'io e mio fratello, magari un po' puzzolenti perché per non sporcare il bagno in quel periodo non si poteva fare la doccia, perché i parenti dovevano vedere il bagno. Poi si mangiava. Mia madre si rilassava e dava un bacio. Mia madre si rilassava e dava un bacio a mio padre. E mia nonna Rosa, la madre di mio padre, che parlava solo in dialetto, li guardava e diceva: «Ei se vuol bene», si vogliono bene. Ma poi aggiungeva: «El vel più bel lui a lei che lei a lui», vuol più bene lui a lei che lei a lui, perché era la madre di mio padre. Poi ci si scambiavano i regali. Mia zia per tutta la vita Natale mi ha sempre regalato sciarpe ruvidissime, praticamente di carton gesso. Poi si giocava a tombola. Mio padre, in balia di ansia da prestazione gastrointestinale, mangiava anche i fagioli crudi della tombola, e poi tutti quanti si ricominciava a mangiare. Il 26 poi Santo Stefano passava quasi in silenzio, e poi il 27 si andava tutti dal medico, mia madre per lo stress, mio padre per la gastrite da fagioli, io e mio fratello per la dermatite causata dalle sciarpe troppo ruvide. Ma non importa, l'importante è che fosse passato un altro Natale. Comunque, anche dalle parti di mia mamma Cremona si festeggia Santa Lucia. No? Non il Natale, eppure i regali ai bambini non le sparano, credo, come a Salò. No, non sparano a Babbo Natale. Come a Salò. Ma mi è venuta questa idea, sai, Babbo Natale vestito di rosso, Salò, allora, fascisti, sede, allora, si dice una volta è stata, no, della Repubblica. Anche, allora, anche se a Salò, devo dire... Allora sei fascista. No, devi defurbizzarti. Stavo dicendo che a Salò non c'è più traccia di nulla di quel periodo della Repubblica Sociale. Io ogni tanto vado a trovare i miei genitori, insomma, non si vede. C'è il museo, sì, c'è solo il museo. Leo, ma di queste tue associazioni mentali che fai tra il rosso, Salò, Babbo Natale, ne hai parlato con l'analista? No, guarda, io vi devo raccontare, un giorno forse l'ho già raccontato. Come si chiama la zia della sciarpa in cartongesso? La vogliamo salutare? Zia Bruna. Zia Bruna, un grande abbraccio. Un giorno vi devo raccontare le mie esperienze dello psicologo, che sono abbastanza interessanti. Questo sono sicura che è veramente una puntata. Vogliamo fare una puntata speciale dedicata? Lettino di Manera. Esatto. Così. Dai, dobbiamo andare al giornale radio, la seconda ora di Funamboli, tra pochissimo. Donna. In quei giorni particolari del mese ti piacerebbe poter andare in moto, andare a cavallo, andare in discoteca, cimentarti in incontri di lotta greco-romana? Ebbene, tutto questo con gli assorbenti Bellugi diventa un sogno. Assorbenti Bellugi, permeabili, evidenti, ingombranti. Assorbenti Bellugi, l'ideale per essere costretta a casa e poterti così dedicare a te stessa. Prova anche tu gli assorbenti Bellugi. I funamboli. We're caught in a trap. I can't walk out. Mi sembra che ormai l'abbiamo capita, che tutti i terroristi sono islamici, quindi che cosa aspettiamo a prendere dei provvedimenti seri? Attentati, attentati, attentati, si sente solo parlare di attentati tutti i santi giorni, punto. E in Italia cosa fanno? Pensano allo ius soli. Panica, sei troppo simpatica. La spacciatrice della lunga vita. Mila, mi devi dire chi ti sceglie la musica, perché è troppo musica di classe perché la scegliate voi. Non lo so. Voi cosa vuol dire voi? L'importante... Voi Veronica? Voi. No, io non c'entro nulla. Sono no, diciamo, Roma, quindi... Elisa Pancaldi, Lorenzo Nespoli, sono lì loro. L'importante è che ci sia sempre una buona opinione rispetto alla conduzione. Questo... Ovvio, certo. Questo sì. Grande stima, spacciatrice Veronica. È un attimo e già è andata così. Beh, spacciatrice di DNA per centenari però. Certo. Comunque, che peggio, no, deve essere una fatica enorme diventare centenari, veramente. Non ci vuoi neanche pensare, dici quando già uno si porta dietro tutta la malinconia. È fatica. Pensa quanta amarezza fino a 120 anni. Vedi, dici, no, ma che siete matti? È una condanna. Io ho l'impressione che a un certo punto una persona possa dire: io sono arrivato, ho fatto quello che dovevo fare, non ho più voglia. È una condanna senza pari arrivare a 100 anni, 120. Pensa che vita terribile. Ma... No. Lascialo esprimere per favore Alessandro, lui la pensa così. Allora, ma certo, alle 10:09 minuti oggi non abbiamo il funambolo del giorno, non abbiamo la funambola del giorno, abbiamo i funamboli, se volete, del giorno, che parla uno per tutti, perché è una famiglia. 4 per 1 ne abbiamo 4 presi. 4 per 1, Micaela Savoldelli, che vogliamo salutare, ci parla da chissà dove. Micaela, buongiorno intanto. Buongiorno. Buongiorno. Che voce squillante. Parlo dalla Thailandia. Dalla Thailandia, dove precisamente? Esattamente, in questo momento ci troviamo a Koh Lanta, che è un'isola a largo di Phuket, quindi in realtà dietro di me c'è la giungla, davanti c'è il mare. Ed è da qui che vi parlo, quindi hai capito perché romanzo, la voce squillante. Esatto. No, Micaela Savoldelli insieme al marito Julien, insieme ai figli Teo e Lia. Che hanno quanto? Bravissimo. Teo e Lia? Quanto allora ha? Teo ha 2 anni e mezzo, sì. E Lia invece ha un solo anno, è piccolissima. Pensate, hanno deciso di fare... Abbiamo deciso di lasciare tutto, e 2 mesi fa abbiamo lasciato Firenze, che è la città in realtà in cui ci siamo conosciuti io e Julien tanti anni fa, e dove ci siamo innamorati prima di poi trasferirci a Parigi, da dove lui viene, perché mio marito è francese. Sì. Quindi abbiamo lasciato Firenze, abbiamo lasciato tutto e abbiamo deciso di partire a fare il giro del mondo. Quindi oggi siamo al nostro 5º continente, a non so più quanti aerei in realtà presi, quanti treni anche, perché ci spostiamo tantissimo anche in treno e stiamo scoprendo tutto il mondo, cominciando dal sud-est asiatico. Quando è iniziato questo vostro giro del mondo? Quanto tempo fa è cominciato? 2 mesi fa, solo 2 mesi fa. Che in realtà mi sembra tantissimo, perché con tutti i posti che abbiamo visto ci sembra veramente di essere partiti da una vita, ma sono solo 2 mesi e abbiamo cominciato dall'Indonesia, e dove poi ci siamo spostati in Malesia, ci siamo spostati a Singapore, ora siamo in Thailandia, fra 2 settimane saremo in Vietnam. Ma la prima domanda seria poi... è: siete matti? Cioè, qual è la motivazione? La motivazione dietro a questa scelta è... E allora, la motivazione dietro questa scelta era da sempre il nostro sogno e l'abbiamo trasformato nel nostro lavoro, perché non siamo miliardari. Quindi in realtà il viaggio è autofinanziato, noi condividiamo tutta la nostra esperienza sui social, i buon vecchi social, e questo ci ha permesso, insomma, di farlo diventare un viaggio autostradale. Questo è un punto, Michaela, da chiarire bene, cioè voi postate tutte le foto su Instagram degli hotel dove siete e gli hotel in cambio vi ospitano gratis, per dirla molto brutalmente. C'è anche questo, non c'è solo questo perché abbiamo anche un blog. Quindi non è tutto concentrato solo su Instagram, per noi la piattaforma principale poi è il nostro blog, dove scriviamo il nostro diario di viaggio, dove diamo anche dei consigli di viaggio, in particolar modo per i bambini. Poi ovviamente ci sono anche social network, quindi c'è Instagram, c'è Facebook, abbiamo una pagina YouTube dove ogni settimana postiamo un nuovo video di tutto ciò che abbiamo fatto. E tutto questo, sì, noi facciamo dei progetti con degli alberghi che a tante volte sono anche un po' più ampi, in realtà semplicemente una fotografia da postare dove facciamo vedere che eravamo loro ospiti, ma l'idea è quella proprio di trasmettere il messaggio che viaggiare con i bambini è possibile. Quindi la maggior parte di... Sì. Questo io volevo chiederti, cioè c'è anche un discorso legato proprio alla cultura genitoriale, no? Per esempio all'Italia, quello che si dice che in Italia appunto si tende a bloccarsi, a non fare tante cose, ad avere difficoltà a viaggiare quando si hanno dei bimbi molto piccoli, e invece nel resto del mondo su questo si è così, più elastici. Assolutamente sì, perché in realtà è possibilissimo viaggiare con i bambini, anzi talvolta è molto più semplice viaggiare con i bambini nell'età dei miei figli che neanche quando diventano un po' più grandi. Guarda, che la scuola senta, poi prima di entrare in diretta Leonardo Manera era scetticissimo. No, io vorrei punto. Per favore che lei ci dicesse almeno un problema che ha avuto viaggiando con i bambini, così noi che stiamo qui nelle città ci consoliamo un po', almeno uno. Viaggiando con i bambini, allora devo veramente sforzarmi, perché ammetto che prima di partire pensavo sarebbe stato molto più problematico, ed invece i miei figli sono dimostrati più forti durante tutta questa avventura. Tutti i problemi sono venuti da noi adulti, che ad esempio abbiamo avuto una brutta allergia, o non si sono mai ammalati, non hanno mai avuto problemi col cibo, sono apertissimi, hanno cominciato a parlare la lingua del posto. Ringraziano ad esempio ora in thailandese, mio figlio ha 2 anni e mezzo, fa capo un capo. Quando qualcuno gli serve un piatto avranno fuori un melting pot linguistico che non posso immaginare alla fine di questi anni. Avranno un'apertura mentale stupenda. Ma quanto pensate di fare? Sono già bambini con 2 nazionalità, quindi mio marito è francese, io sono italiana. Quanto pensate di stare in viaggio? Allora, io rispondo sempre fino a che non saremo stanchi. In realtà ci siamo dati come limite massimo l'entrata a scuola, all'entrata alle scuole elementari di Teo, che ha 2 anni e mezzo, quindi insomma ci sono almeno 3 anni e mezzo davanti. Accidenti, esatto, accidenti. Ancora 4 anni. Ma non è stancante? Rendiamo conto che molto. Tante volte è difficile, soprattutto perché ci muoviamo tantissimo. Ora ci troviamo a Koh Lanta, dove rimaniamo 2 settimane, ma è veramente il posto in cui siamo rimasti più tempo possibile. E altrimenti di solito sono delle tappe di 1 settimana massimo, 3 giorni, quindi ci è capitato di prendere 3 aerei in 1 sola settimana, quindi tante volte siamo stanchi. Abbiamo nella nostra il fatto che facciamo qualcosa di molto bello e questo dà tanta energia. E qualche invece, non avete un po' di... non vi mancano i parenti, gli amici che avete lasciato nelle vostre città? Sì, ci manca anche la città stessa, guai, non abbiamo un rapporto con Firenze, ci manca anche la città, ci mancano le famiglie ovviamente. Ci manca tanto di quello che abbiamo lasciato, ma quello che stiamo guadagnando è grande, l'esperienza di vita, perché è uno stile di vita che abbiamo deciso di intraprendere, ci offre tantissimo. Ma che stile è? Cioè di apertura mentale, di esplorare, ce lo può? Noi tentiamo anche di tantissimo di incontrare gente del posto, è ciò che puntiamo a fare di più in assoluto. Quindi ad esempio quando ci troviamo in un luogo non mangiamo nei posti occidentalizzati, mettiamo così. Più che altro cerchiamo sempre di scegliere i posti dove abbiamo il contatto con la gente del posto, perché no, soprattutto famiglie, per capire come si vive in Thailandia ora, in Indonesia quando eravamo in Indonesia, in Vietnam quando saremo in Vietnam. E abbiamo incontrato anche tanti expat sul nostro percorso, sia ragazzi italiani che hanno lasciato l'Italia per vivere all'estero. Noi li incontriamo, abbiamo fatto un ottimo incontro ad esempio a Singapore, dove siamo stati invitati da una ragazza italiana, anche lei della stessa città da cui vengo io, che è Bergamo, perché sono originaria di Bergamo, e che ha lasciato quindi Bergamo un po' di mesi fa, si è trasferita a Singapore, ci ha accolto davanti a un piatto di pasta e un bicchiere di vino nella sua shop house a Singapore, vero. Ci ha raccontato. Sì, sì, è davvero. Comunque, Michaela, anche arrivano. In realtà la pasta si trova molto più frequente. Arrivano tantissime domande. Ovviamente quella come viaggiate, ma ce l'avete detto. Sui soldi, come li prendete? Per esempio, Mara ci chiede come prendete i soldi. Questo è il nostro lavoro a tutti gli effetti. Quindi l'abbiamo fatto diventare un lavoro, ce lo siamo inventati in qualche maniera dal nulla, nonostante noi avessimo un blog e fossimo blogger già prima di partire. Questo ci ha aiutato tantissimo poi nelle collaborazioni che oggi abbiamo, perché non partiamo dal niente. Questo, Michela, però quanto lavoro precedente avete dovuto fare per arrivare comunque poi ad avere una quantità di seguito di persone, comunque, perché altrimenti non diventa possibile monetizzare sul web, esatto, no? Quindi assolutamente. Ci avete lavorato da prima? In realtà è qualcosa che ha sorpreso proprio anche noi, perché il blog non esiste da molto, esiste da un anno e mezzo. Quindi in un solo anno e mezzo abbiamo parlato di qualcosa che forse in Italia non si sente troppo, ossia la bellezza di vita con i bambini. I bambini non sono un ostacolo, ma anzi si rendono tutto ancora più bello, ed è forse un messaggio che in Italia non si sente troppo spesso, e questo ci ha aiutato tantissimo, al punto tale che in solo un anno e mezzo, insomma, abbiamo acquisito si può dire un livello comunque da poterci permettere un'avventura del genere. Mi sta venendo voglia di fare un altro figlio sentendola parlare. Grazie mille. No, che è un po' il messaggio di Michela Savoldelli. Comunque, Michela, noi se ce lo permettete magari vi seguiremo in qualche altra tappa, tanto se state in giro per il mondo. Volentierissimo. Diventa un po' la nostra inviata per il mondo. Esatto, ci raccontate dove siete, ci fate respirare un po' d'aria fresca. Sì, insieme a Teo, Lia, Julien, grazie davvero Michela Savoldelli, dalla Thailandia, dall'isola di Koh Lanta, hai capito? Però bisogna prendere tanti aerei, prendere gli aerei è innaturale, bisogna volare il meno possibile. Poi in aeroporto ci sono delle scale mobili lunghissime in alcune aeroporti. Leo, se ti venisse in mente un progetto imprenditoriale, io non farei questo, fossi in te, ti dico così a intuito. Ma tu lo devi capire, Veronica, prima di entrare in diretta hai detto, ma è innaturale, ma poi viaggiare con i bambini piccoli, ma è allora... solo problema. Cioè tutto il contrario di quello che... Però è perfetto, perché era proprio l'ascoltatore che da contrapporre a una storia come questa. Bambini piccoli che viaggiano in aereo quasi sempre poi soffrono di otite, perché le cabine magari non sono pressurizzate nel migliore dei modi. Poi prendono dei batteri. Sì, poi ci sono infezioni gastrointestinali di vario tipo, insomma, e così via. No, ma poi alcuni non crescono più in altezza, lo sai, dopo che li hai fatti viaggiare per prendere l'aereo non crescono più. Dai, andiamo al traffico e poi cambiamo tema. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta i Funamboli. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her head. Allora, siamo qui, c'è Mario da Roma che è lì pazientemente da qualche minuto, lo ringraziamo. Mario ci ha chiamato perché... Buongiorno a tutti. Perché ho sentito, ho ascoltato, diciamo così, un post su WhatsApp che avete mandato a inizio trasmissione in merito al, diciamo così, la vicenda del bullismo nei confronti del ragazzino e via. E una signora ha detto che i genitori, in quanto minorenni, poi lei ha corretto dicendo che invece erano maggiorenni, ma il discorso vale lo stesso, che in quanto minorenni i genitori erano responsabili dei comportamenti del bambino, per cui andavano, diciamo così, puniti anche loro, diciamo così, dal punto di vista giuridico. Io voglio dire che praticamente io faccio il volontario in carcere da oltre 20 anni e via, e ho contatti anche con le famiglie delle persone detenute, che siano maggiorenni o minorenni e via, e le famiglie senza avere magari responsabilità anche indotte e via, ma colpe poche, sono punite in quanto genitori già, sia dal punto di vista umano che sociale e anche morale, perché vivono la stessa situazione o le stesse vicende. Cioè, le dice, la punizione di quei genitori è vedere i figli che hanno fatto quello e vederli in carcere, è già una punizione di vita, ecco. Assolutamente sì. Ed è perché in quanto genitore, anch'io sono genitore, per cui le domande chiaramente le fai, indipendentemente dal retaggio sociale in cui ti trovi, ma il problema è che hanno la stessa esclusione sociale dei figli. esattamente sì, la lei stessa. Dice quindi è una sorta di punizione, già la vivono, Mario, e la vivono, per cui diciamo così, al di là del contesto giuridico e via, già sono puniti. Sì, va bene, è chiarissima la sua posizione anche da una testimonianza vissuta da volontaria in carcere. Veronica, Leonardo, sapete che il Papa ha mamma mia, come sono triste. Ma cosa è successo? Che brutta giornata. No, perché? Annunciavo il prossimo tema. Ma mamma mia, no, abbiamo citato il Papa, sentiamo cosa ha da dire del Papa. Allora, il Papa ha fisso un cartello sul proprio appartamentino dal titolo, il cartello recita: vietato lamentarsi, cara Veronica. Quindi mamma già mia, tu... che fatica venire qua la mattina. Mamma mia. I trasgressori sono soggetti da una sindrome di vittimismo con conseguente abbassamento del tono dell'umore e della capacità di risolvere i problemi. Capito, Veronica? Quindi è inutile che ti lamenti. Oddio, che male. Sai che a Genova c'è il cosiddetto mugugno, si chiama mugugno genovese. Bellin. Pare anche dalle tue parti, Leonardo, dove abiti tu? A Milano c'è il mugugno. Allora, Leo, mi sa che anche a te questo tema ti riguarda oggi. Attenzione, l'inventore di questo cartello l'ha donato al Papa. Il Papa l'ha fisso sul proprio appartamento. È Salvo Noè, psicologo. Tra l'altro, Noè che dona una cosa al Papa. È un qualcosa. Dottor Noè. E non era un'arca. E non è una barzelletta. Dottor Noè, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, qui deve capire che Leonardo Manera è una persona proprio amara, nel modo, cioè lui si sveglia ed è già, e mi lamento, comincio a lamentarmi anche senza motivo, si lamenta talvolta sempre. Veronica l'ha fatto invece un po' apposta. Ma perché lei ha fatto questo cartello vietato lamentarsi? Ma proprio perché ho sentito negli anni della mia crescita sempre lamentarsi e magari mai attivarsi per cambiare in meglio la vita, sia sociale, familiare e così via. Quindi un giorno mi sono talmente stancato di sentire lamenti che ho fatto un cartello. Ho detto tra me e me, dico, voglio dirlo a voce alta, basta lamentarsi, cominciamo a fare quello che possiamo fare. Aumentiamo le nostre competenze, aumentiamo la capacità di risolvere i nostri problemi, mettiamoci d'accordo su quelle che sono le cose importanti della nostra vita e cominciamo a farle. È scritto anche un libro, smettila di lamentarsi. No, dottore, qui io devo fare delle domande molto precise. Ecco, e sapere, sì, ma sono qui per questo. Ecco, ma io sono molto curiosa. Senza parcella. Da un punto, per questo cerco di mettere a frutto al volo. Ma dal punto di vista terapeutico, secondo lei perché fa male lamentarsi? Questo voglio sapere. Cioè, quali sono gli effetti della lamentazio perpetua? Perché il lamento blocca la persona nella sua condizione, magari negativa, e non fa, e in qualche modo non la sposta nella condizione della soluzione. Perché se noi ci lamentiamo, cosa facciamo? Il cervello entra in un loop negativo. Questo loop negativo non fa trovare nessun'altra soluzione se non il lamento, che poi diventa un'abitudine. E quindi l'abitudine fa sì che la persona comincia ad abbassare il tono dell'umore perché pensa di non poter fare nulla. Perché le frasi che adesso ci diciamo costantemente, non si può fare nulla, non cambierà mai nulla, ormai è sempre stato così e continuerà ad essere sembra così. Sembra di sentire Leonardo Manera. Ma non è che lei ha questa percezione un po', diciamo, deviata anche dal suo lavoro? Perché lei poi, essendo psicologo, sente sempre le persone lamentarsi. Lei pensa che sia così anche nella vita reale, cioè che tutti noi tendiamo alla lamentela eccessiva? Io credo di sì, non è chiaramente, non parliamo del 100%, ma c'è una buona dose. Ma lei, se legge i giornali, se guarda i rotocalchi, se c'è questa tendenza a negativizzare maggiormente la notizia perché magari crea un audience maggiore, c'è questa. Poi io sono siciliano, allora non perché la Sicilia ne abbia più questa tendenza, perché poi mi sono reso conto che tutto il mondo mi ha chiesto il cartello e quindi l'hanno tradotto in tante lingue e questo mi ha fatto capire che il cartello interessa anche altri popoli. Ma a parte questo, io sono cresciuto con la frase lamentati per stare bene. Ora, io non ritengo che questa frase sia potenziante, motivante, ed ecco perché ho voluto fare un cartello e un libro che esce il 9 di novembre per le edizioni San Paolo, che si chiama appunto Vietato lamentarsi. Ma il fatto che l'abbia affisso il Papa, che effetto le ha fatto a sapere che il Papa... Ma l'effetto è stato per me importante perché mi ha permesso di divulgare il messaggio in maniera molto più ampia. E poi Chiara mi capisce che l'emozione è fortissima perché il Papa ha apprezzato una cosa che da anni anch'io cerco di far capire ai miei conterranei e non solo. Ma non è che se lei, se le persone smettono di lamentarsi, non vengono più poi da lei e lei perde anche il lavoro in qualche modo, poi si lamenterà del fatto che non ha più lavoro perché si lamenterà della crisi, della dottor Noè. Ma... sì, sì. Ma voi avete, no, questa risposta la voglio dare. Io lavoro con le potenzialità delle persone, non con i limiti. Quindi, certo, nel momento in cui la persona non si lamenta più, lavoriamo su quello che possiamo fare. Sviluppiamo le nostre potenzialità, le nostre risorse interiori che magari sono lasciate lì inutilizzate. Quindi il mio lavoro è sviluppare le potenzialità che la persona si porta dentro, non lavorare con i deficit. Poi, chiaramente, in un clima di lamento, questo è chiaro che è la prima cosa che mi arriva. È l'atteggiamento lamentoso. Ma, ma dottore, se lei dovesse dare un consiglio per interrompere il loop negativo, cioè il circolo del lamento vizioso per quelli che sono abituati a farlo ormai così per deformazione. Per rimanere. Sì, allora, il cartello è un buon monito perché uno ogni tanto lo guarda e dice: ah, aspetta, mi sto lamentando e non sto facendo nulla per cambiare. Poi comprare il libro e leggerlo, perché nel libro ci sono molte cose interessanti che ci permettono di migliorare la nostra vita. Giustamente, questo è un ottimo consiglio, momento di autopromozione ci sta. Però c'è intanto qualche cosa di molto pratico che uno può fare, cioè secondo lei mettere a fuoco che intanto ti stai solo lamentando. Sì, quella, la consapevolezza, è la prima cosa. La seconda cosa è identificare perché ti sta lamentando, perché c'è gente che non si gode neanche le belle giornate, perché è talmente abituata a lamentarsi che non si rende conto della bellezza e della possibilità che ha. Quindi identificare qual è il motivo, poi cercare una soluzione e poi agire per cambiare in meglio. Queste sono tre cose, chiaramente, permettetemi, siamo in radio, so la velocità dell'intervento e quindi vi sto dicendo tre input. Chiaro, poi su questo potremmo parlarne in maniera più tecnica, in maniera più approfondita. Io sul messaggio che vi è dato lamentarsi invece spezzo una lancia, perché effettivamente c'è questa tendenza a vedere, come dire, ad occultare le cose positive che uno ha e invece a mettere in risalto solo quelle negative che uno è un discorso vede. Interessantissimo. È un po' un atteggiamento, forse per cercare aiuto, per cercare affetto, per cercare un po' così. Un po' anche in maniera autoconsolatoria, no? Sì, ma perché la vittima, molte volte, il tranello del vittimismo nasce anche in famiglia, perché io faccio la vittima, così fai tu quello che dovrei fare io. Questo è anche il meccanismo. Ma forse anche banalmente una richiesta di empatia, di così qualcuno viene qui, mi dà la richiesta di empatia si chiede in maniera adulta, che vuol dire faccio una domanda di quello che ho bisogno. Non è che mi lamento solo perché affinché tu mi dica ma cosa accade, ma cosa hai. La vittima ha una posizione ben precisa, si mette col broncio e aspetta che qualcuno dica a lei che cos'hai. Invece l'adulto non è che si mette lì ed aspetta, l'adulto si mette nella condizione di chiedere. Ecco, dobbiamo fare crescere, ecco, per esempio, se un bambino è una modalità infantile, esatto. Ecco, bravo, se un bambino si mette col broncio in un angolo, io dico: figlio mio, che cos'hai? Se hai bisogno, chiedi, non c'è bisogno che ti metti lì a fare il broncio. Ecco, qual è l'emozione che hai e chiedi quanto hai bisogno, perché questo è il modo per agire nella tua vita. Allora io da piccoli, ecco perché il cartello dice evitare di farlo in presenza dei bambini, perché se io abito il mio figlio a lamentarsi, poi è chiaro che poi ci sarà tutto un discorso man mano che cresce che sarà difficile da gestire. Allora lei non vede, caro dottor Noè, ma c'è Veronica Gentili che mi guarda in schema e ha detto: no, devo farle la domanda, e la domanda da premio Pulitzer, non lo so, che domanda devi fare? No, perché ne farei altre 600, ma volevo capire, secondo lei questo, per esempio, per le persone che lei curerà, immagino, quindi persone depresse, persone che hanno anche poi dei disturbi di questo tipo, questa regola vale lo stesso, secondo lei? Certo, ma perché la regola adulta è, guardi che la terapia è una cosa talmente importante, perché io cerco di adultizzare le persone che magari vengono qui perché hanno delle difficoltà. Allora, vediamo qual è la difficoltà, chiaramente, cerchiamo di capire le cause, dopodiché dobbiamo far uscire la nostra parte adulta per risolverla, perché non è il terapeuta che risolve il problema, ma il terapeuta ti aiuta a farti le domande produttive affinché tu possa trovare la soluzione. Devo dire che perché lei questo è il meccanismo. È assolutamente convincente, devo dire, mi sembra un po' una battaglia a volte difficile, perché invece la nostra società mi sembra che tende a infantilizzarsi più che ad adultizzarsi. Però, dottor Noè, lei non lo sa, ma anche noi abbiamo ogni tanto un ospite psicologo, che è il dottor Janssen, che anch'io, è mio metodo di stare bene, mio metodo di psicologia, invogliare, spingere persone a fare cose che fanno stare bene, per esempio. Se tu sei in coda e, per esempio, passa macchina di polizia, segui macchina di polizia e ti accodi su macchina di polizia, così poi tu superi codesta cosa ti fa stare bene. No, vabbè, dottore, il nostro Leonardo Manera, ovviamente. Sì, ma guardate, io sono molto, mi piace molto ironizzare anche su certe tematiche, però siccome chi fa il mio lavoro affronta delle tematiche molto serie, certo, allora dobbiamo anche mandare dei messaggi che, alla gente, che a parte vi è dato lamentarsi, ma che si può fare qualcosa. Vabbè, per ma più di averlo affisso lì dal Papa, voglio dire che le ha fatto una pubblicità non richiesta mondiale, devo dire. Perché Papa Francesco ha condiviso il mio messaggio, questo, certo, perché lui l'ha detto in tanto omelia, ha parlato di questa tematica, ed ecco perché ci siamo incontrati, perché c'era una sinergia che chiaramente l'abbiamo scoperta quel giorno quando ci siamo incontrati in Piazza San Pietro, ma che poi ho sentito molte volte nelle sue prediche. Cioè il Papa fine a Noè, ecco, questa cosa possiamo giocarci. Sì, no, perché così. Poi un vescovo mi ha detto non avrei mai potuto pensare che il Papa avrebbe incontrato Noè. Invece è successo, del Papa. Ma dottore, questo mio perpetuo lamentarmi qui del mio co-conduttore, compagno, secondo lei mi fa male? No, secondo me fate bene il vostro lavoro e quindi vi auguro di continuare alla grande. Va bene, noi la ringraziamo. Grazie, Salvo Noè, dottore. Grazie davvero. Dobbiamo andare a sentire la borsa e poi a proposito di lamentele abbiamo un defurbizzato oggi. Diciamo, abbiamo le rubriche defurbizzate, abbiamo tante altre cose da affrontare, ma state con noi. I funamboli. Veronica, no, hai svelato tutto, ci eravamo accordati benissimo per 500 euro a provetta, dai. Giuro che se sento ancora una persona paragonare gli attentati allo Ius Soli, smetto di ascoltare la radio. Ma perché non prendi la bici la mattina almeno? Non stressi quelli che conosci, non stressi noi e soprattutto non ti stressi da solo. Quando però queste scale mobili stanno diventando come a Despacito la radio. Praticamente facendo un latte che giù. Despacito. No, non ho imparato le parole ancora in tempo. Io il finale del nostro amico pugliese l'ho capito, eh. Io no, spiegamelo. Che sta venendo il latte, gucchio, il latte. No, era come gli piace, come i bimbi, sente le parolacce, no, ed è tutto, no, un fremito. No, perché non l'aveva capito veramente. E l'ha spiegato, bravo, l'ha spiegato. Vabbè. Allora, devo dire che Cristina ci chiede il blog della nostra famiglia in viaggio, Michela Savoldelli. Allora, il blog è se io lo dico in radio è complicatissimo, perché è Like Miljan. Non lo troverete mai. Allora, Cristina, scrivi una mail a noi, funamboli@radio24.it, e ti diciamo come si scrive. Sì, forse è il cognome del... No, del like come like in inglese. Poi Emilian potrebbe essere un po' come Milan, però con delle lettere in più. Sono tutti i nomi, le loro lettere, dei loro nomi messi insieme. È Milano, Imola, Livorno... Jay, Imola, Ancona, Napoli. Jay è like Miljan, like Miljan. Ad ogni modo, se mette Michela Savoldelli blog su Google, se lo trova, insomma, non è complicato. Allora, lo vedi Leonardo che ha recuperato il pragmatismo post non lamentarsi? Ma io posso dire che il dottor Noè mi ha convinto, mi piace quello che ha detto, perché la mia esperienza precedente... Quindi adesso, da oggi... Non mi lamenterò mai più. Ma smetti! Amici delle scale mobili, abbracciamoci stretti! Però invece cani maledetti che state in metropolitana addossati alle porte, no. Andate nel centro del vagone. Io devo dire che la mia esperienza invece con gli psicologi è stata due volte, sono andato per pochi mesi dallo psicologo, entrambe molto negative. La prima stava in silenzio per mezz'ora e poi cominciava ad insultarmi. Il secondo a un certo punto cominciava... Tanto c'è Despacito da mezz'ora sotto di te. Che... Questo è per aiutare il tutto. Ma come cominciava ad insultarti? Sì, me ne diceva di ogni, anche cose pesanti. Il secondo a un certo punto cominciava a piangere. cominciava a piangere ed ero io che dovevo consolare lui. Leo, mi dispiaceva. Dai, ascolta, Leo, ma perché Leo, le incontri tutte e tu? Chi fu a suggerirti i nomi dei due terapeuti? Allora, la prima fu, non ricordo chi, ma un amico. Il secondo andai da lui perché abitava vicino a casa mia. Fu per motivi logistici. Cioè, un suggerimento eccellente per trovare il giusto terapeuta per te. Ma attenzione, ce l'avevo vicino di casa. Alle 10.42 c'è un evento mai successo a Radio 24. Il defurbizzato si è... come dire, impaurito, ha detto no, non ce la faccio più a raccontare quello che voleva raccontare, e quindi niente, si è eclissato. Beh, poco prima, giusto, di andare in onda, anche perché è una presa di responsabilità importante. Noi poi diamo una patente, lo so. Quindi o poi tu sei in grado di tenere fede a quella patente o ti tieni la furbizia e convivi con lei. Brava, non si è sentito in grado di ottenere la patente di defurbizzato, e allora va bene. Dai, andiamo a Felice da Torino. Felice, buongiorno. Buongiorno, Felice. Eccoci. Lei proprio ha un nome che è un antilamento. Buongiorno. Forza, dica. Buongiorno, mi dica. No, che mi dica, no. Ha chiamato lei, poi deve spegnere. Allora, io deve spegnere la radio. Sulla violenza di quei giovani, sì, e sulla violenza in genere, no, diffusa nella comunità, no? Quella violenza che è nascosta così. E volevo fare riferimento alla violenza della satira. Cioè, in Italia, almeno io l'ho fatto in Italia, si può dire qualsiasi cretinata, qualsiasi insulto, e poi si dice guarda che è una, no, è una presa in giro. Felice, perché non c'è Vincino qui? La satira per Vincino, sua stessa... Quello è un buono, no? È buono, certo, è un mito. Che vuole. È un mito, ma la satira deve essere violenta, aggressiva, irriverente. E allora noi avremo questi giovani che non possono dire allora, contro il preside, non possono agire contro dire cattiverie così. Le possono dire al loro piccolino, a quello debole che c'è lì nel gruppo. Intanto l'esempio viene da tipi come quelli citati da lei, no? Cioè, che Vincino ispira i bulli. Dai, questa, no, ecco, magari Felice, di solito la satira non se la prende col più debole, esatto, ma se la prende col la più differenza forte. È proprio sta questa. La differenza, no? Cioè, prendo di mira il politico, il personaggio potente che vado a dissacrare e vado in qualche modo a prendere in giro, e non prendo un ragazzo più fragile o non più fragile, semplicemente che cerca di vivere la sua vita con fatica, cioè, normalmente come tutti. È come se Leonardo facesse il comico prendendosela con i più disagiati, i ragazzini, i bimbi, le persone che hanno dei problemi, noi penseremmo che Leonardo non vale niente, non che è un artista. Ma infatti no, no, la differenza è proprio questa: la satira ha l'obiettivo di colpire i potenti, diciamo, di ironizzare sui potenti. Questa è il bullismo è proprio il contrario, diciamo che sono i due aspetti opposti. Però insomma, Felice, accogliamo anche la sua opinione come quella di tutti, ovviamente. Dobbiamo andare però a sentire le informazioni del traffico e poi siamo qui. Certo che questa cosa che oggi non abbiamo dato la patente di defurbizzato, io quasi me la prendo io gratuitamente. Despacito, suavecito, bonito, e che te lo dico. Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan, ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta i funamboli. Ultima parte dei funamboli, siamo in diretta, come sempre c'è cara Veronica, è venuta a ritrovarci con grande piacere da parte nostra, Peter, oh! Buongiorno a tutti, gli amici. Salve Peter. Buongiorno signora Gentili e signor Milan. Buongiorno. Diciamo che io nel mio piccolo paese Parpo sto portando avanti questa battaglia per il nuovo Galateo contemporaneo. Ah sì, è vero. Ah sì, certo, è vero. Perché è un periodo, diciamo, di grande maleducazione, e quindi è giusto ribadire le regole, in my opinion, diciamo, secondo me, di quello che può essere il modo corretto di comportarsi in ambito sociale. Sa anche l'inglese, in my opinion. Of course, this is the question, so I like to, mi piacerebbe, diciamo, ecco, è a test, io faccio queste domande test, e poi sì, c'è... Io sono pronto. Per esempio, quale di questi parcheggi in sosta vietata è il meno invadente? Parcheggiare davanti a un passocarraio di un palazzo, ma dove abitano persone antipatiche? Occupare il parcheggio riservato alle forze dell'ordine, ma solo se non si hanno precedenti penali? Ma la risposta esatta è... Fermarsi in doppia fila per pochi minuti, ma solo se si hanno conoscenze tra i vigili, almeno sei sicuro che non ti mettono la multa. Ma questa cosa che ci dà le risposte già, noi non possiamo scegliere. Ma mi sa che noi le abbiamo sbagliate le prime, le prime volte l'abbiamo... Avrei messo la due, la è educato fumare una sigaretta in un luogo pubblico o affollato? Sì, se non si aspira. Sì, ma solo sigarette nazionali? Ma la risposta esatta è... No, a meno che non sia la prima o l'ultima volta che si fuma. Diciamo la prima o l'ultima può essere perdonata. Questa anche questa di può così surreale che ci sta bene. Seduti a tavola, il tovagliolo si lega stretto intorno al collo. Va usato dopo aver ingerito ogni boccone? Sì. Ma la risposta esatta è... Deve essere utilizzato per pulire piatti e bicchieri se sporchi. Ma no, era la 2, veramente. Meno male che ha risposto lui, perché io mi sarei fatta fregare dalla seconda. Se tu hai il piatto sporco, usi il tovagliolo per renderlo pulito alla padrona di casa. Bah. Come servirsi del sale a tavola? Porgendo il piatto alla padrona di casa per farcelo salare. Dici, mettimi un po' di sale. Non è educatissimo. Non fai così tu di solito? No, io no. Oppure prendendolo con lo stesso coltello che si usa per mangiare. Il coltello, sale. Ma la risposta esatta è a mano, ma solo se tra i commensali c'è almeno un parente, quindi c'è più familiarità, diciamo. Ah, io mi porto un parente e poi infilo la mano nel centro. Sì, esatto. A tavola è buona educazione guardare sotto i piatti per individuarne la marca? Sì, se il piatto è vuoto. Sì, ma solo in trattoria. La risposta esatta è sì, ma solo se il piatto è sbeccato, perché così se lo devi comprare prendi una marca diversa. Vabbè, qui non ci intromettiamo. Quale dei seguenti comportamenti è corretto assumere nei confronti dei propri figli piccoli se si hanno ospiti a casa? Imbavagliarli per impedire che disturbino. Questa no, dai, questa lo sappiamo tutti. Questa, guarda che... Mandarli a letto dopo averli sedati? No, ma no. La risposta esatta è... Sarà la 3. Chiuderli in bagno, ma solo dopo averlo pulito. Vabbè. No, però la seconda questa volta non era male. Sì. Come fare se si intende rivedere una persona conosciuta a casa di amici? Si scopre dove abita e ci si apposta sotto casa sua? No, questo no. Non credo. Dopo la cena la si segue e al momento buono si fa capolino fingendo un incontro casuale? No. La risposta esatta è... Si va immediatamente a vivere nello stesso palazzo, così poi... Era meglio comodo. L'appostamento però, allora, sì, esatto. Più ridotto nel tempo. È educato fumare il sigaro in casa d'altri? Sì, ma solo se il padrone di casa ha il naso chiuso? Sì, ma solo se in casa c'è già cattivo odore? La risposta esatta è sì, ma solo se il sigaro non è molto grosso, così ci metti meno tempo, diciamo... Però guardi, anche il cattivo odore secondo me era un'idea. Uscendo con il proprio cane, quale dei seguenti comportamenti è corretto? Attenzione, che qui la gente... Lasciare che annusi i pedoni, ma solo al parco. Incitarlo ad accoppiarsi con altri cani. La risposta esatta è portarlo dal salumiere per fargli assaggiare i salumi. No, ma come fa? Questa sì, per la terza è la risposta giusta anche secondo me. Sì. Non è male però l'idea di usarlo come assaggiatore. Mi dia un po' di prosciutto dolce, aspetti che lo faccio provare al cane. Ottimo. Qualcuno secondo me c'è anche provato. Siamo alle ultime due. Sì. Quale dei seguenti comportamenti a tavola è corretto? Chinarsi a rovistare nel piatto per mangiare più velocemente quando si ha fretta, cioè metti la testa nel piatto per finire in fretta. No, questo proprio. Assaggiare dal piatto del vicino facendone esplicita richiesta, mi fai assaggiare lì le cose. La risposta esatta è parlare a bocca piena, ma solo se si hanno da dire cose interessanti. Cioè tu puoi parlare a bocca piena. Ultima test. In un aperitivo in piedi si gustano delle olive non snocciolate, ma non si vede in giro nessun piattino per riporre i noccioli. Che cosa è più educato fare? Prima di partecipare a un aperitivo è sempre meglio portarsi un piattino da casa? Si ingoiano i noccioli per non mettere in imbarazzo la padrona di casa? No. Ma la risposta esatta è... Si mangiano solo due olive e si infilano i noccioli nelle cavità nasali. Molto... Questa è agghiacciante. E Peter secondo me da parpo lo fa spesso. Io spero che questi miei consigli servano ad avere maggiore educazione nella società, diciamo. Io credo di sì. Va bene, allora c'è Tina da Pavia, però deve essere velocissima, la ringraziamo. Sì. Prego, Tina. Allora, buongiorno, senti, io volevo soltanto dire che ognuno di noi può fare cose per aiutare i ragazzi e dare delle risposte. Noi per esempio siamo una piccola associazione in un paese di 2000 abitanti e con la scuola facciamo progetti, che sosteniamo naturalmente, per portare i ragazzi a... Come si chiama l'associazione? È la Biblioteca Giovannini Magenta ed è a Lomello in provincia di Pavia. Noi presentiamo già da anni dei progetti, quest'anno ne abbiamo presentato uno corposo proprio sul bullismo, li abbiamo presentati sulla violenza di genere, sulla legalità e via. Quest'anno sul bullismo proprio abbiamo cominciato con la posa di una panchina gialla all'interno del cortile della scuola come simbolo forte, no? E poi c'è un progetto che riguarda le quarte e quinte elementari, cresciamo con una psicologa che verrà. Quindi insomma si può fare anche nel piccolino e Tina da Pavia ce lo racconta con questa associazione. Però ci dobbiamo fermare, Veronica, Leonardo, ci troviamo domani alle 9 in questa settimana corta, strana, bislacca, bizzarra. Io vado a far provare il prosciutto al cane. Esatto. Chissà come lo prenderà il salumiere sotto poi, no, poi chissà se mi...